Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani e naturalmente buon anno a tutti. Siamo ritornati qui puntualissimi in diretta per accompagnarvi anche in questa prima parte dell'anno con le nostre tematiche finanziarie, quelle legate ovviamente alla famiglia soprattutto. E chi parla di tasse il primo dell'anno parla di tasse tutto l'anno? Ci poniamo questa domanda, speriamo di no, ma già sappiamo che il fisco non sarà tenero nei confronti dei nostri portafogli nei mesi che ci troviamo davanti. E non potevamo iniziare l'anno nuovo se non con il tema che più di tutti sta preoccupando gli italiani, probabilmente la voce della manovra Salva Italia che tocca da vicino la maggior parte di noi. Lo sappiamo, ne abbiamo parlato diverse volte nelle ultime settimane qui a Salva Danaio, nelle ultime settimane che hanno caratterizzato il 2011. Con il 2012 torna la tassazione sulla prima casa, si chiama IMU e sostituisce anche la vecchia ICI. Cambiano le aliquote, cambiano le regole per il calcolo delle rendite catastali, è stata progettata una super tassazione sulle seconde e terze case e d'altronde, appunto, lo ribadiamo ancora, è su questi tre pilastri che si basa la manovra Salva Italia di Monti sul fronte delle tasse sugli immobili. Oggi il Sole 24 Ore, per farci digerire subito rapidamente l'extra dose di cibo che negli ultimi giorni abbiamo ingurgitato, propone l'agenda del 2012 con tutti i rincari del nuovo anno fra bollette, tasse locali, autostrade, canone TV, per non parlare dell'assaggio che abbiamo già avuto con la benzina in questi ultimi giorni, un pieno davvero insostenibile è diventato. Ma il Sole propone anche all'interno delle pagine di norme e tributi la guida pratica sulla casa e oggi anche noi a Salva Danaio torniamo a fare il punto sulle misure del governo sulla casa e sulle novità in arrivo appunto anche dagli emendamenti. Ne parleremo con il collega del Sole 24 Ore Cristiano Dell'Oste e con Luigi Lovecchio, dottore commercialista esperto in materia fiscale per il Sole, che è tra l'altro tra gli autori della guida pratica appunto uscita oggi con il quotidiano. Anche se è il 2 gennaio e molti di voi sarete magari in tranquillità a casa a godervi queste ultime giornate prima di ritornare al lavoro, e molti hanno fatto questo super ponte che appunto li porterà dritti all'inizio della prossima settimana, approfittando anche di venerdì prossimo, è il 6 gennaio, l'Epifania. Noi saremo regolarmente in onda, ma appunto questa data permette a molti di fare un ponte piuttosto lungo e appunto, dicevo, anche se siete a casa ancora tranquilli potete comunque chiamarci all'800 24 00 24, scrivete al 349 238 6666 ponendoci le vostre considerazioni, le vostre domande sull'argomento di questa mattina. Non parleremo solo di IMU ma anche di tutto ciò che attiene, faremo un punto della situazione su tutti gli interventi che nell'ultima manovra vengono fatti sulla casa, perché sono stati confermati gli interventi per di agevolazioni fiscali appunto per gli interventi di riqualificazione dell'immobile. C'è anche la discussa e preannunciata riforma del catasto, adesso dettagli non ce ne sono ma magari cercheremo di capire anche che cosa potrà cambiare da questo punto di vista. Ci potete anche scrivere a salvadanaio@radio24.it o, se volete, anche sul social network dove siamo da qualche settimana, salvadanaio-radio24, appunto per raggiungerci su Facebook. Prima di tutto è arrivato Cristiano Dell'Oste. Guarda Cristiano, chiudi meglio la porta, mi sa che è il caso, perché altrimenti ci sentono anche da fuori qua, insomma tutta la diretta la raccontiamo anche ai nostri ascoltatori. Cristiano, buongiorno, benvenuto, buon anno. Buongiorno Deborah. Ti facciamo cominciare subito con il mal di pancia, eh? Praticamente hai finito di scrivere la guida l'altro 2 secondi fa e adesso, esatto, ce la vieni adesso subito, siamo qua, se la vieni subito a raccontare. Luigi Lovecchio, buongiorno, buon anno. Buongiorno. Ci a voi, sente? Buon anno a tutti, grazie. Anche lui praticamente ha consegnato alle pagine del quotidiano la guida 2 minuti fa e adesso gliela facciamo subito raccontare anche ai nostri ascoltatori. Diamo un'occhiata anche alla partenza dell'anno per quello che riguarda la borsa, perché almeno da questo punto di vista, anche se la nuova tassazione che ci colpirà da ogni fronte ci mette un po' di cattivo umore, la borsa invece sembra voler cominciare l'anno sotto i migliori auspici. La partenza è stata buona per gli indici del vecchio continente e comunque nel corso della mattinata gli indici hanno rafforzato la loro seduta. Oggi c'è il settore auto che va molto bene. Parigi segna un più 0,75%, Francoforte più 1,52%, Milano più 1,35%, non abbiamo la performance di Londra chiusa per festività, così come per festività saranno chiuse le contrattazioni nel pomeriggio anche a Wall Street. L'euro sul dollaro è a 1,2946, lo spread è a 504 punti base circa, il rendimento del titolo decennale è al 6,91%. I temi di Milano in rapida successione: Terna più 4,69, oggi molti titoli naturalmente beneficiano anche della raffica di aumenti sul fronte tariffario che arriveranno. Terna è uno di questi, beneficia dell'incremento dal 1 gennaio, appunto da ieri, delle tariffe di luce e gas. Generali più 3%, Azimut più 2,66, Prysmian più 2,45, Monte dei Paschi più 2, qua c'è un rimescolamento delle carte a livello di vertice che a quanto pare appunto fa bene al titolo. C'è ancora una discesa anche oggi per i titoli della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, meno 1,45%. Per quello che riguarda questo gruppo, c'è da segnalare nel fine settimana le dimissioni dell'amministratore delegato Viola, che si appresta a prendere il posto di Antonio Vigna alla guida appunto di Monte dei Paschi. In pregilo meno 0,25, Tots sulla parità, questi sono i titoli appunto più deboli, quelli che guadagnano meno: Luxottica più 0,3, Unicredit più 0,3%. Direi che la borsa la possiamo subito lasciare. Cristiano, ti faccio sentire se ti fosse sfuggito questo passaggio, ma non credo, quello che ha detto Mario Monti, presidente del Consiglio, nella conferenza stampa di fine anno, proprio le domande dei giornalisti sul tema dell'inasprimento della tassazione sulla casa. Sentiamo, vi riproponiamo appunto questo estratto. Degli ammodernamenti dei meccanismi per conoscere la realtà credo che siano sempre auspicabili, e la riforma del catasto che è avviata e di cui avete letto qualche cosa e che richiederà qualche tempo va esattamente in questa direzione, e conoscere la realtà vorrà dire porre fine ad abusi benché involontari e introdurre maggiore aderenza tra il fisco e la realtà effettiva. Quindi anche questo credo va nella direzione non di un aggravamento dell'imposizione sulle case, bensì di una maggiore equità nell'imposizione sulle case. L'aliquota per la prima casa è 0,4, il numero delle case esenti è di 6 milioni e non credo che si possa dire che la tassazione è maggiore di quella che era prima. Il nostro sforzo è quello di rendere più omogenea la preoccupazione effettiva e quindi evitare che ci siano molti, come ci sono stati in passato, per niente preoccupati della pressione fiscale, pur avendo redditi considerevoli, e altri ipergravati dalla pressione fiscale. Quindi stiamo lavorando in questa direzione. E allora 800 24 00 24, numero verde per le vostre domande. Vedo poche pause fra gli ascoltatori che naturalmente oggi avranno probabilmente anche un po' approfittato forse della pausa dal lavoro per invece fare un punto della situazione su quello che sarà il nuovo bilancio familiare da qui ai prossimi mesi. E come abbiamo già detto, Cristiano, la casa peserà non poco. Certo. D'altronde appunto lo abbiamo anche questo detto molte volte, veniva considerata un po' una questione anomala il fatto che l'ICI fosse stata soppressa nel 2008, quindi è rientrata sotto una formula diversa, adesso si chiama IMU, e per la verità le caratteristiche della nuova tassazione non sono neanche identiche alla formulazione che era stata soppressa, giusto? Esatto, l'IMU somiglia molto all'ICI, ma non è l'ICI. Per esempio, una cosa che inciderà molto per moltissime persone è che viene ristretto il campo di quelle che tecnicamente si chiamano le assimilazioni all'abitazione principale, cioè tutta una serie di casi che con l'ICI erano trattati come abitazione principale, ad esempio uno dei più noti è la casa concessa in uso gratuito ai figli, che adesso con l'IMU saranno considerati seconda casa. Quindi non più prima casa, non più abitazione principale, che pure dovrebbe pagare, ma meno, ma addirittura seconda, quindi a tassazione ordinaria. Quindi passa ordinaria, a tassazione piena, 0,76%. Esatto. Effettivamente devo già dirti che ci sono proprio molte domande a questo proposito, quindi chi immaginava di ereditare anche la vecchia situazione, di poter certo beneficiare appunto dell'esenzione totale, o quantomeno appunto del pagamento di un'aliquota ridotta, non ne potrà appunto beneficiare di tutto questo. Luigi Lovecchio, ancora buongiorno. Allora magari ci aiuta a rifare un punto sulle nuove aliquote che si dovranno versare, intanto come acconto il 18 giugno, ce la siamo presa con comodo, siamo partiti appunto ricordando questa novità ai nostri ascoltatori con largo anticipo, ma è sempre bene saperlo, facciamo un po' come fa il mercato azionario, così almeno le notizie cattive le si digeriscono rapidamente. Sì, esatto, nel senso che le scadenze di questa nuova imposta coincidono con quelle dell'ICI, per cui si paga la prima rata, si paga il 16 di giugno, che quest'anno cade di sabato e quindi slitta al 18, e la seconda rata si paga al 16 di dicembre. Le regole sono quelle dell'ICI, per cui in prima rata si pagherà la parte relativa al possesso nel primo semestre del 2012, cioè l'imposta relativa al possesso di immobili relativa al primo semestre del 2012. Qui semmai ci sarà un problema di coordinamento, ma questo non vorrei entrare troppo nel tecnico, nel senso che bisognerà vedere con quali aliquote bisogna pagare questa prima rata, perché è possibile che i termini per i bilanci di previsione dei comuni slittino ulteriormente rispetto al 31 marzo, mi spiego meglio. Perché siccome vanno rifatti tutti i regolamenti, nel senso che i comuni saranno tutti quanti impegnati a rivedere i propri regolamenti ICI e le proprie delibere ICI, perché non coincidono con quelle che si applicheranno ai fini dell'IMU. Questo richiede tempo. Al momento il termine per adottare tutte le delibere in materia di IMU è il 31 di marzo, quindi i comuni hanno tempo fino al 31 di marzo per decidere quale aliquota. Dopodiché, teoricamente, i contribuenti potranno farsi i conti, perché al momento noi abbiamo semplicemente le aliquote di legge con dei margini di variazione, ma non sappiamo che cosa deciderà concretamente il comune. Per saperlo bisogna aspettare il 31 di marzo. È possibile che questa data slitti, perché l'esperienza degli anni passati ci ha insegnato che quando ci sono molte modifiche, molte delibere da fare, le date vanno molto in là nel tempo. Ricordo che nel 2011 la data per adottare i bilanci di previsione è slittata al 31 di agosto, quindi fino al 31 di agosto 2011 si potevano ancora modificare le aliquote. Ora quest'anno probabilmente non arriveremo al 31 di agosto, però ci potrà essere una piccola problema di sovrapposizione di date, per cui da un lato noi dovremo pagare il 18 di giugno e dall'altro bisogna vedere fino a quando si spingeranno i bilanci di previsione. Certo, c'è da immaginare che avendo una grande necessità di fare cassa, questo governo stimolerà non poco gli enti locali appunto a fare il loro dovere e quindi a elaborare nei tempi più rapidi possibili i bilanci di previsione. Sono abbastanza certa, ma così questa è un'immaginazione mia, che quantomeno a fine maggio, inizio giugno conosceremo quello che i comuni decideranno fare, per cui primo suggerimento da dare, Cristiano, proprio per poter individuare per tempo l'aliquota che si dovrà versare, intanto capire cosa avrà l'opportunità di fare il proprio comune, anche se anche questa è in un certo qual modo una certezza, i margini di manovra delle amministrazioni in termini peggiorativi o migliorativi delle aliquote sono abbastanza chiari. E beh sì, diciamo che la legge stabilisce, ad esempio per quanto riguarda l'abitazione principale, che c'è uno 0,4%, o che dir si voglia 4 per mille, e poi il comune può muoversi di uno 0,2 in più o in meno, quindi si va da 0,2 a 0,6 come aliquota. Poi c'è una detrazione di 200 euro, la legge dice anche che il comune, se vuole, può aumentare questa detrazione fino ad azzerare l'imposta, ma se lo fa non deve alzare il prelievo sulle seconde case. Quanti comuni potranno permettersi di fare questo? Verosimilmente pochi, questo è, bisogna dirlo fin da subito. Ma non è soltanto un tema di abitazione principale, ci sono tutta una serie di altre cose che i comuni dovranno decidere se confermare o no. Penso per esempio alle aliquote ridotte per le abitazioni affittate a canone concordato. In pratica, se un proprietario sceglie di affittare la casa con un canone che è quello stabilito da appositi accordi siglati tra le associazioni della proprietà e le associazioni degli inquilini, in passato, fino alla fine del 2011, poteva avere diritto in certi comuni a degli sconti sull'ICI o anche addirittura a vedersi la casa trattata come abitazione principale, quindi esente da ICI. Adesso con l'IMU non potrà più essere trattata come abitazione principale, però il comune potrebbe in ogni caso decidere di dare un'aliquota ridotta per agevolare l'affitto a canoni bassi per gli inquilini. Lo faranno? In quali termini? In quali modi? Queste sono tutte domande che ogni singolo comune dovrà decidere come risolvere. Certo. Ci togliamo anche un altro problema, Cristiano, facciamolo abbastanza rapidamente. Come si fa a calcolare l'aliquota che dovremo versare? Perché questo era proprio il tema che aveva generato molta confusione nelle nostre precedenti puntate, perché chiaramente c'è anche un piccolo aumento. La base imponibile è identica a quella che veniva considerata per l'applicazione appunto dell'ICI. Sì, guarda, possiamo forse fare addirittura un passo indietro, visto che negli ultimi giorni sui giornali e anche sui telegiornali si è parlato tanto di questa riforma del catasto, del fatto che si pagherà per metri quadrati e non più per vani. Ecco, abbiamo sentito prima la frase di Monti, diceva qualche tempo. Qualche tempo vuol dire, ahimè, qualche anno, secondo le stime del territorio, perché per rivedere tutti gli estimi e rifare il catasto ci vorrà molto tempo. Quindi per adesso il primo passo da fare per calcolare l'IMU è partire dalla rendita catastale, la solita vecchia rendita catastale, quella che si trova nell'atto d'acquisto o nelle visure catastali, appunto. Si prende questo valore, lo si rivaluta del 5%, che è la rivalutazione fatta da Prodi a partire dal 1 gennaio 97, quella resta. Quindi di fatto per rivalutare del 5% si moltiplica per 1,05. Poi il risultato che si ottiene lo si moltiplica non più per 100 come si faceva con l'ICI, ma per 160. Il risultato così ottenuto è di fatto il nuovo valore catastale ai fini dell'IMU. Su questo valore si va ad applicare l'aliquota che avrà deciso il comune e poi, se siamo nel caso di un'abitazione principale, andiamo anche a scontare la detrazione dei 200 euro, eventualmente maggiorata di 50 euro per ogni figlio fino a 26 anni di età convivente nell'abitazione principale. Ogni bamboccione quindi convivente in casa quantomeno potrà permettere di alleggerire questo carico familiare. Sto scherzando naturalmente, senza offendere nessuno, qualche volta cerchiamo anche con delle battute un po' infelici di alleggerire queste infelici già trasmissioni in cui dobbiamo fare il punto su novità fiscali che quest'anno peraltro saranno molte. Allora direi di cominciare anche a sentire i nostri ascoltatori, sentiamo chi inaugura Salva Danaio del 2 gennaio, la prima puntata dell'anno. Concedo questo onore ad un'ascoltatrice di Verona che è Maria Grazia, che saluto. Maria Grazia, buongiorno e buon anno. Sì, buongiorno altrettanto. È già le prese con qualche calcolo per capire quanto le peseranno queste novità nelle tasche? Io volevo chiedere come. Allora, io abito a Verona ma sono in affitto e alla Spezia ho ereditato un appartamento. Sì. Io volevo sapere per quale assurda cosa questo appartamento viene considerato come seconda casa. Perché lei lì non ha perché non ha la sua dimora e credo che questo non ho la residenza, ma io la trovo una cosa assolutamente assurda, cioè. Come tante cose che siamo costretti a subire, cara mia Maria Grazia. Non lo so, Luigi Lovecchio, c'è una ratio in questa scelta che è stata fatta dal governo? Era così anche prima? Sì, era così anche prima e la ratio è piuttosto chiara, cioè non è l'agevolazione della prima casa, quella è l'agevolazione che non dipende dal fatto che io ne abiti lì, è la prima casa che io acquisto, l'acquisto con le agevolazioni dell'imposta di registro e quindi pago di meno. Questa è l'agevolazione dell'abitazione principale. E credo, insomma, tutto sommato che rientri nella discrezionalità del Parlamento di decidere che tipo di agevolazione dare. Non li possiamo costringere per forza a decidere di dare l'agevolazione della prima casa. L'agevolazione è dell'abitazione principale, a prescindere dal fatto che si tratti di prima casa o di seconda casa. Peraltro, proprio per l'applicazione della nuova ICI, quindi dell'IMU, il governo nella nuova normativa ha esplicitato in maniera abbastanza chiara il concetto di abitazione principale. Stavo intanto distraendomi perché su Sky TG24 vedo che da Milano oggi entrano in vigore nuovi ticket per alcune prestazioni mediche, che credo che sia un tema che sia abbastanza sfuggito anche forse a molti giornali, e magari lo dico così a Marco Lombardo, il mio collaboratore, ce lo segniamo e vediamo di fare un punto della situazione anche su questo nelle prossime settimane, perché poi sono anche queste le tematiche insieme alla casa più vicine ai cittadini, quelle dove magari all'interno delle famiglie ci sono persone con problemi di salute naturalmente, che quindi devono fare ricorso alle prestazioni mediche in maniera purtroppo più frequente rispetto a tanti altri nuclei familiari più fortunati, e se arrivano anche questi nuovi pesi chiaramente i bilanci si restringono sempre di più. Monitoreremo anche questo, un tema che ci interessa molto. Allora andiamo ad un'altra domanda di un altro ascoltatore, Nicolò dalla provincia di Bari, che saluto. Nicolò, buongiorno, buon anno anche a lei. Sì, buongiorno, buon anno anche a voi. Ci dica. Una domanda molto veloce, probabilmente è stata affrontata nelle trasmissioni precedenti, però no, ribadiamo Nicolò, non si preoccupi. Esatto. Grazie. Allora, io e mia moglie siamo proprietari entrambi di un appartamento, di una prima casa, lei in provincia di Bari, io in provincia di Monza, in quanto io residente lì e mia moglie ovviamente residente in provincia di Bari. Ecco, abbiamo una figlia al 50%, solo che segue l'attestato di famiglia della madre, in buona sostanza, quindi non è nel mio attestato di famiglia. E avevo due domande a tal proposito riguardo all'IMU. Uno, da un punto di vista delle agevolazioni, se la bambina seguisse la madre, oppure ci possono essere agevolazioni anche per quanto riguarda il mio conto. Dove vive questa ragazza, Nicolò? Con chi vive? Adesso con la madre. Va bene? In provincia di Bari. E poi niente, siccome io ho perso il lavoro l'anno scorso e attualmente sono disoccupato, volevo capire se ci fossero delle agevolazioni anche per quanto mi riguarda, insomma. Grazie Nicolò. Tra l'altro Luigi Lovecchio, forse un caso simile lo avevamo affrontato anche nella puntata scorsa, dove c'era appunto una situazione di, poi tra l'altro a Nicolò non l'ho chiesto, di separazione tra coniugi. Lui abita a Monza, la moglie a Bari, la ragazza vive con lei, intanto diciamo il beneficio fiscale che consegue all'esistenza di un figlio di età inferiore 26 anni credo ne possa beneficiare la moglie, se non ricordo male la risposta che aveva dato in precedenza, poi per tutto il resto chiedo il suo aiuto. Lovecchio. Sì, sì, esatto, in realtà la situazione credo che sia diversa, non mi pare che in questo caso ci sia la separazione, mentre nella domanda che c'era stata fatta l'altra volta era l'ipotesi del coniuge. Possiamo recuperare Nicolò magari per chiedergli, l'ho fatto una... Nicolò l'ho fatta separare da sua moglie involontariamente? No, non si preoccupi. No, ma quindi ma voi intenzioni però, no, scherzo. No, ma voi praticamente allora siete ancora regolarmente sposati, però diciamo come prima abitazione avete due situazioni diverse, nel senso che lei risulta residente come prima casa a Monza e sua moglie a Bari, però vivete insieme. È corretto, sì. D'accordo. Lovecchio. Sì, e quindi la situazione è leggermente diversa. Ad ogni buon conto la risposta è corretta, cioè la figlia è solo ed esclusivamente, si aggiunge come detrazione esclusivamente alla madre, perché convive con la madre. Qui ricordiamo molto sinteticamente che la detrazione di 50 euro per ciascun figlio di età inferiore a 26 anni, primo, non dipende dal fatto che i figli siano a carico oppure non a carico, per cui il figlio a carico o anche il figlio che lavori, che ha 20 anni per esempio e lavori, dà lo stesso diritto ai 50 euro di maggiorazione di detrazione. L'importante è che risieda sotto lo stesso tetto dell'abitazione su cui va calcolata l'IMU. E infatti stavo dicendo, secondo, la condizione perché si applichi questa detrazione è che il figlio risieda anagraficamente nella casa che costituisce l'abitazione principale. Situazione che si verifica però solo nei confronti della madre. Però Lovecchio, adesso dobbiamo andare in pausa. C'era in sospeso un'altra questione che riguardava Nicolò. Che tipo di IMU pagano queste due persone? Perché entrambi hanno una casa di proprietà. Non ci risiedono però, da quello che capisco, nel senso che risiedono solo in una, Cristiano. E il problema, questo è un altro problema, perché ai fini dell'IMU, perché si possa parlare di abitazione principale, ci vuole la residenza e la dimora. Se l'ascoltatore ha soltanto la residenza nella casa di Monza, ma poi sta a Bari con la moglie, beh, a stretto rigore la casa di Monza diventa per lui una seconda casa. Una seconda casa, quindi va applicata l'aliquota dallo 0,76%. Esatto. Salva Danaio. Non sono neanche accorta che è andato il meteo, questo break è stato velocissimo, meglio così, così almeno avremo modo di fare intervenire più ascoltatori con delle domande sulla nuova tassazione sulla casa di quest'anno, quindi la nuova ICI, la vecchia ICI, la nuova IMU, chiamiamola come vogliamo, ma in ogni caso ritorna la tassazione sulla prima casa. Eravamo rimasti, Luigi Lovecchio, se vuole, oppure Cristiano, voi no, eravamo rimasti con un punto interrogativo, sì, appunto su Nicolò, che dobbiamo stabilire dove abbia la sua fissa dimora per capire se deve pagare e dove l'IMU. Lovecchio. Sì, è corretto quello che diceva Cristiano. La mia impressione è che l'ascoltatore che lavorava a Monza avesse non solo la residenza ma anche la dimora abituale, perché lavorava a Monza. Semmai il problema forse si può porre adesso che purtroppo ha perso il lavoro, ecco, e quindi ci può essere questa discrasia tra la residenza che è rimasta a Monza e la dimora abituale che potrebbe essere diventata Bari, ma fino a che queste situazioni sono situazioni corrette, legittime, cioè non sono situazioni fatte ad arte, create ad arte per risparmiare IMU, mi riferisco ovviamente all'escamotage molto in voga quando c'era l'esenzione ICI, di separare artatamente la residenza anagrafica tra i due genitori per godere dell'esenzione per due immobili, ma quando queste situazioni invece rispondono a effettive esigenze, insomma quella, la situazione che ha rappresentato l'ascoltatore a me sembra assolutamente legittima, lì c'è effettivamente una residenza anagrafica che coincide con la dimora abituale e sono residenze anagrafiche diverse per i due coniugi. Laddove questa ipotesi si verificasse in concreto, io sono convinto che per quanto riguarda l'IMU entrambe le case potrebbero beneficiare delle agevolazioni dell'abitazione principale. Allora, in ogni caso, appunto, le uniche detrazioni che la nuova normativa riconosce sono quelle legate ai figli, Cristiano, se si è perso il posto di lavoro ma si risulta proprietario di un'abitazione dove c'è la fissa dimora, appunto non esiste nessuna agevolazione. Purtroppo non ci sono agevolazioni, ci sono questi 200 euro che sono concessi per tutte le abitazioni a prescindere dal reddito del proprietario, e poi i 50 euro che anche questi sono concessi a tutti i figli ovviamente, a prescindere dal fatto ad esempio che il figlio lavori e magari contribuisca al reddito della famiglia, in questo caso i 50 euro spettano comunque. L'altra grande novità, magari Cristiano la raccontiamo perché anche questa ha generato un po' di scompiglio fra molti proprietari, introdotta appunto proprio dalle normative di Monti, sono quelle relative al fatto che adesso l'IMU verrà applicata anche ad una determinata tipologia di immobili che prima, che sono stati fino a questo momento completamente esenti da ogni tipo di tassazione, che sono quelli rurali. Sì, esatto. Vale in particolare questo discorso per le case rurali, che pagheranno così come le altre case, quindi se sono abitazione principale con le relative agevolazioni, aliquota ridotta e detrazione, se invece non fossero abitazione principale pagheranno come seconda casa. Le abitazioni rurali erano sempre state esenti, purché ovviamente possedute da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, adesso vengono tassate. C'è poi un problema che molte di queste abitazioni, alcune di queste abitazioni, sono ancora al catasto dei terreni, non sono nel catasto dei fabbricati, quindi di fatto non hanno una rendita autonoma. Per questo, convertendo in legge il decreto Salva Italia, si è stabilito che entro il 30 novembre del 2012 tutti coloro che sono appunto proprietari di queste abitazioni ancora al catasto dei terreni dovranno accatastarle al catasto dei fabbricati. E nel frattempo, visto che poi la prima rata va pagata a giugno, nel frattempo pagheranno utilizzando la rendita di fabbricati simili. E ovviamente il pagamento della prima rata sarà tenuto in considerazione come acconto in attesa di fare il conguaglio. Il conguaglio sarà fatto secondo la... No, tra l'altro sono anche dei fabbricati, generalmente sono degli edifici molto, molto grandi, effettivamente potrebbero rischiare, so che molti proprietari te lo hanno segnalato anche questo problema, di subire un salasso notevole. E certo, qui sarà fondamentale quando li si va ad accatastare usare una serie di accorgimenti. Proprio oggi ne abbiamo scritto, non in questa guida dedicata all'IMU, ma nelle pagine di Norme e Tributi, per cercare di contenere la rendita entro limiti ragionevoli, ovviamente sfruttando una serie di possibilità lecite, non si sta dicendo nulla di illecito, però ad esempio se ci sono stanze o porzioni del fabbricato che non sono più idonee a produrre reddito, le si può accatastare ma senza rendita. Questo ovviamente vale per i fabbricati strumentali, perché pagheranno l'IMU anche i portici, le stalle, le cascine, in questo caso con un'aliquota che è la più bassa, che è lo 0,2, e che il comune potrà ridurre fino allo 0,1, ma verranno in ogni caso tassati. Allora andiamo ad altri ascoltatori. 800 24 00 24, per comprendere un po' meglio i termini della nuova tassazione sulla casa, che riguarderà molti di noi, anche se, come ha detto Monti nel contributo che abbiamo sentito all'inizio della trasmissione, 6 milioni di case sono esenti dalla nuova tassazione. Però quante verranno colpite? Cristiano, avete mai fatto un censimento voi personale al sole? No, ecco, su questa cosa che ha detto Monti delle esenti bisogna fare un passettino, perché ovviamente la prima casa non è esente, diventa esente quando l'imposta che avrebbe dovuto pagare è inferiore all'ammontare della detrazione. Oggi in Italia ci sono poco meno di 20 milioni di abitazioni principali che erano esenti a fini ICI, il che ci fa pensare che, se immaginiamo che gli italiani sono circa 22 milioni di famiglie e che poi ci sono coloro che non sono proprietari della casa, che un pochino era stata resa un po' troppo ampia la nozione, vuoi con le assimilazioni, vuoi con quelli che dividevano la residenza, vuoi con gli altri benefici concessi dai comuni per chi magari appunto la dava in uso gratuito al figlio, al cugino, al nipote. Diciamo che chi non aveva un'abitazione principale ai tempi dell'ICI con l'esenzione era un po' un'eccezione lui. Quindi in qualche modo adesso è giusto restringere per dare effettivamente il beneficio a chi lo merita. In questo caso i 6 milioni di abitazioni a cui faceva riferimento Monti sono quelli che probabilmente vanno a pagare zero e quindi di fatto ad essere esenti in perché virtù della detrazione. Perché arriverebbero a pagare una sorta di una cifra inferiore a 200 perché pagherebbero euro meno di 200. Esattamente. Allora, chi sentiamo adesso? Maurizio da Roma. Maurizio, buongiorno, una domanda per Luigi Rovecchio. Maurizio, buongiorno. Buongiorno, buon anno a tutti. E la mia domanda è questa. Mio padre è possessore di 3 appartamenti. Volendo decidere lui di intestare a me e mio fratello uno di questi appartamenti, sì, perché l'operazione, se la facessimo in tempo a farla entro il mese di gennaio, lui e l'ICI praticamente diventeremo noi proprietari di 3 prime case, giusto? A patto che abitiate lì e fissiate lì la vostra dimora. Maurizio, aspetti lì, vediamo intanto questa prima indicazione se ce la può dare Luigi Rovecchio. Si deve abitare lì? Sì, insomma, mi sembra un po' difficile che uno viva in 3 appartamenti. Uno è l'appartamento in cui uno ha la residenza anagrafica e dimora abitualmente, quindi credo di nuovo che l'ascoltatore abbia sovrapposto il concetto di abitazione principale, che è quello che è agevolato ai fini dell'IMU, con la prima casa. La prima casa non ha alcun tipo di agevolazione nell'IMU. Nell'IMU l'agevolazione è per l'abitazione principale, quindi se sono 3 appartamenti, quello che posso immaginare è che 2 di questi 3 appartamenti vadano ai 2 fratelli e ognuno dei 2 fratelli fissi la propria residenza anagrafica e dimora abituale, ognuno sul proprio appartamento. In questo caso, di questi 3 appartamenti, 2 senza dubbio avrebbero l'agevolazione dell'IMU per abitazione principale. Il terzo appartamento resterebbe comunque fuori, quindi il terzo appartamento dovrebbe essere considerato come una seconda casa. Questo a meno che i 3 appartamenti non siano tutti quanti contigui e si possa richiederne un accatastamento unitario. Ma entriamo, io credo, in un'altra dimensione, sì. Un'altra ipotesi. No, tra l'altro il fatto di confondere, come diceva Luigi Rovecchio, il concetto di prima casa con quello di dimora abituale ai fini proprio dell'esenzione, Cristiano, ma chi verrebbe a controllare se... No, in realtà su questo devo dire abbiamo qualche colpa anche noi giornalisti, perché tante volte per semplicità, per brevità, si considera prima casa sinonimo di abitazione principale. In realtà sono 2 cose diverse, perché la prima casa, come giustamente diceva Luigi, è un concetto che si usa quando si va a comprare un'abitazione. Se io non possiedo altre abitazioni, semplifichiamo, e compro la prima, ho diritto di comprarla con delle tasse sull'acquisto ridotte. Dopodiché, se io quella prima casa che ho comprato con le tasse ridotte la concedo in affitto, perché magari io abito con mia moglie nella casa di proprietà di mia moglie, su quella casa che io ho concesso in affitto pago l'IMU come se fosse una seconda abitazione, casa, perché non è la mia abitazione principale. E quindi ecco che sono 2 concetti diversi. Quindi separiamo nettamente, questa è un'indicazione molto netta che possiamo dare ai nostri ascoltatori, il concetto di prima casa da abitazione principale, perché appunto per l'applicazione dell'aliquota IMU questo è un concetto che va tenuto assolutamente separato, sono 2 concetti che vanno tenuti assolutamente separati. Abbiamo Lia da Milano. Lia, buongiorno. Buongiorno. Ci dica tutto. Sì, io ho un problema. Io sono usufruttuaria di quella che era la mia prima casa, che ho ceduto un po' di anni fa, ho venduto a mio figlio, il quale ha la nuda proprietà. Entrambi siamo sempre rimasti residenti lì. Adesso, siccome ho sempre pagato io l'ICI, tranne quei 2 anni in cui non si doveva, come aveva detto Berlusconi, adesso io mi trovo a dover pagare l'IMU, immagino, con la dovuta detrazione. Allora, aspetti, sì. E quindi la domanda è questa, io di fatto non vivo lì, anche se ho la residenza, perché da 6 anni circa io vivo da un'altra parte, in un'altra casa mia sempre. Io mi chiedo, che è poi la mia seconda casa, ma di fatto ho lì il domicilio, ma non ho la residenza perché l'ho tenuta a Milano. Io mi chiedo, come faccio io a sapere qual è in realtà quella dove io ho la dimora abituale? Io ce l'ho da un'altra parte la dimora abituale, ma allo Stato non risulta, voglio dire. E certo, Lia, perché... Come mi devo comportare? Infatti, un bel caso il suo. Luigi Lovecchio, ce lo sa dire lei, come si deve comportare la nostra ascoltatrice milanese? Dunque, diciamo che era un po' quello che lei stava dicendo... chi controlla qualche minuto fa, cioè chi controlla la dimora abituale? Obiettivamente è molto difficile controllare la dimora abituale, per cui anche perché a stretto rigore di norma io per avere la residenza anagrafica da qualche parte devo in qualche modo dimostrare che lì ho anche la mia dimora, quindi c'è una sorta di presunzione di coincidenza tra la residenza anagrafica e la dimora. Questo non significa appunto che non ci possano essere, e sono molto diffuse ipotesi in cui c'è la residenza distinta dalla dimora. Allora, la risposta da dare all'ascoltatrice è piuttosto semplice, anche se non è soddisfacente, cioè io farei una risposta su due piani. Il primo piano è la risposta ufficiale. È evidente che se qualcuno domanda ufficialmente io ho la residenza anagrafica in un posto ma non vi dimoro, la risposta non può che essere non hai diritto alle agevolazioni dell'abitazione principale finita. Quindi praticamente sulla prima casa, quella che ci diceva Lia, quella dove non dimora, deve pagare l'IMU come se fosse la seconda casa 0,76%? Sì, esatto, perché ha la residenza ma non ha la dimora. Ottimo. Scusate, aspetta un attimo Lovecchio che vuole fare un inciso, Cristiano dell'oste. No, e diciamo una cosa importante, e paga come seconda casa anche su quella in cui dimora non risiede, quindi sono tutte e due seconde. Lia le conviene razionalizzare le abitazioni, mi sa, se non vuole... Però sentiamo cosa aggiunge Luigi Lovecchio. A livello di secondo piano. Secondo piano qual è, Lovecchio? Vabbè, il secondo piano credo sia abbastanza intuibile. Cioè io ritengo piuttosto improbabile che un controllo di questo tipo venga fatto in punto di fatto dai comuni. Cioè io credo che i comuni abbiano ben altre occupazioni che non andare a verificare con procedure che ritengo siano abbastanza laboriose, defatiganti. Cioè non è semplice andare a vedere se qualcuno, pur avendo la residenza, non ha lì la dimora abituale. Insomma, è piuttosto complesso. Ecco, quindi Lia che cosa deve fare secondo lei? Limitarsi a pagare lo 0,76% solo sulla prima abitazione e fare un po' la gnorri sulla seconda, quella dove abita? No, allora, non posso dare un consiglio di questo è genere. È così, allora. Me lo sono immaginato io che fossi in diretto, nel senso così, che la situazione ci potesse portare a concludere questo, non è che volevi invitare lì... È probabile che la casa di cui la signora è usufruttuaria e in cui ha la residenza non verrà controllata dai comuni ai fini di verificare se oltre alla residenza la signora ha anche la dimora abituale. Detto questo, però adesso devo andare in pausa, Lovecchio, ma intanto gliela lancio già. Io, per esempio, per come sono fatta, con una spada di Damocle sulla testa di questo tipo non riuscirei proprio a vivere. Per non saperne leggere né scrivere, per essere assolutamente in regola, il tema è comunque versare entrambi le aliquote su entrambe le case? Oppure perché risultano nella fattispecie sono tutte e due... Oppure acquisire la residenza nella seconda. Casa in cui si ha la dimora abituale. Ottimo, e quindi sarebbe veramente l'escamotage più trasparente, più lineare. Non sarebbe neanche un escamotage, infatti. Salva Danaio. Insomma, sì, stavamo un po', ci perdoni Lia, sorridendo sul caso della nostra ascoltatrice, che per la verità lei ha generato un po' di preoccupazione, e stavo riflettendo su quello che mi diceva prima Luigi Lovecchio, mai il comune andrà ad effettuare il controllo sul fatto che questa persona abbia stabilito in quell'abitazione, soprattutto una seconda, la sua fissa dimora. Insomma, i nostri convincimenti sono sempre tanti, poi veniamo puntualmente smentiti. Stavo pensando stamattina al mio collaboratore Marco Lombardo, che ha preso una multa dei controllori della metropolitana a Torino alle 6.45, ci avremmo mai pensato che si svegliassero così presto all'inizio dell'anno, pure l'ha presa. Pertanto invito tutti quanti alla grande cautela quando magari così ci convinciamo di qualcosa e poi le cose non vanno esattamente come vorremmo. Allora, ci sono tanti ascoltatori che ci stanno scrivendo su Facebook, oltre che contattarci sugli altri canali tradizionali che diamo sempre. Ho un contratto gratuito con la figlia, registro esente di ICI, sei una ascoltatrice straniera, oggi 2012 IMU che mi spetta. Cristiano, sei riuscito ad interpretare, a fare la traduzione? Direi che spetta di dover pagare, credo sia uno di quei casi di cui parlavamo in precedenza, delle cosiddette assimilazioni. In questo caso probabilmente è un comodato regolarmente registrato che appunto in passato era assimilato all'abitazione principale, e in questo caso invece la casa concessa in uso gratuito alla figlia è trattata come seconda casa di proprietà della, diciamo, di colui che la concesse in prestito. Poi naturalmente, come sempre succede, quando cominciamo a spiegare un concetto e magari il tema non è esattamente quello della trasmissione, molti ascoltatori si aggrappano lì e adesso in tanti ci stanno facendo delle precisazioni sul concetto della prima casa che abbiamo detto prima, Cristiano. Un'altra condizione per poterla identificare in questi termini è che la si debba abitare per 5 anni senza per ottenere e mantenere le agevolazioni fiscali che si sono ottenute, no, con l'acquisto. No, non la si deve abitare, la si può anche concedere in affitto. Ah. L'importante è prendere la residenza nel territorio del comune. Non la si deve mantenere la proprietà per 5 anni. Mantenere la proprietà, la proprietà sì, però non necessariamente devo abitarci. Io posso comprarla e poi darla subito in affitto, purché la mia residenza sia nel territorio del comune. Ottimo, magari un'altra volta facciamo una trasmissione solo ed esclusivamente sul tema della prima casa, il concetto prima casa e il concetto abitazione principale, che sono diversi. Chi abbiamo adesso? Manuela da Milano. Manuela, buongiorno. Ah, beh sì, questo è un altro tema che volevamo anticipare, anche se ancora molti termini non li conosciamo. Manuela, buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Ci dica. Pronto? Sì. Sì, allora, il mio discorso era... avevo un paio di domande, nel frattempo ve ne sono venute in mente delle altre. Comunque, la rivalutazione catastale. La rivalutazione catastale ovviamente... provvederà l'Agenzia del Territorio ed è presumibile, più che una domanda una constatazione, è presumibile che poi comunichi a tutti i contribuenti diciamo i cambiamenti. Presumibile che non credo che si concretizzi, Manuela, perché l'Agenzia delle Entrate, ecco il tema della rivalutazione catastale, non c'è mai arrivato niente di che a casa, no? Una comunicazione, lei gli è arrivata qualche volta? Allora, diciamo che quando l'Agenzia del Territorio farà dei cambiamenti in autonomia, poi fa la comunicazione. Ma lei parla della riforma del catasto, dell'aggiornamento dell'archivio edilizio italiano, sì, un'altra cosa? Sì. Cioè, quello che dice Monti, cioè dobbiamo fare, il catasto dovrà provvedere alle rivalutazioni, è presumibile che poi lo comunicherà. Se fa dei cambiamenti me li comunica, perché sennò io ho una visura magari datata 2 di gennaio del 2012, dove ho dei dati sui quali io farò pagherò tutte le mie imposte, IMU e IRPEF. È chiaro che quindi conseguentemente sarà il catasto che me lo dovrà comunicare, ma questa non so se voi ne avete conoscenza o meno. Velocemente le altre due domande sono: terreni, se prima pagavo l'ICI pagherò l'IMU? E l'altra ancora, coniugi separati, al 50% l'immobile, se prima io pagavo, al di là della residenza che non aveva nessuna importanza, ma la pagavo in quanto proprietaria, ognuno pagava il 50%, adesso come eventualmente poteva essere... Ci si deve regolare, Manuela. Grazie molte. Allora... Grazie infinite a voi. Sì, grazie Manuela. Allora, sul tema il primo, quello che Manuela poneva, la revisione appunto dell'archivio edilizio italiano, la riforma del catasto, ci comunicheranno queste revisioni e come ci cadranno addosso? Assolutamente sì, ma sottolineiamolo ancora, è un'operazione dai tempi lunghi, sì. È un'operazione che difficilmente potrà completarsi nel 2012. I tecnici del territorio hanno sempre detto che per fare la riforma degli estimi ci vogliono 4-5 anni con la piena collaborazione dei comuni. Quindi per adesso tutti i conti sull'IMU si fanno sulla base delle rendite catastali attuali con il metodo che abbiamo descritto prima. Non andiamo a inventarci cose nuove che per il momento non ci sono e quando ci saranno verranno ovviamente ben pubblicizzate. Ti ricordi un anno fa che abbiamo parlato tanto della famosa fotografia sul patrimonio edilizio italiano che è stata scattata, non mi ricordo per quale finalità fu fatta quella grande operazione. Era la ricognizione delle case fantasma, delle case che in catasto non erano per niente iscritte. Adesso c'è il problema di come aggiornare le rendite di quelle che iscritte lo sono. Intanto almeno la fotografia al catasto, certo, ce l'ha a parte, certo. Tu immagina se doveva partire pure da zero da questo punto di vista. Luigi Lovecchio, i terreni ai fini IMU come dovranno essere considerati? Diciamo che non cambia nulla, quello che cambia è il moltiplicatore, nel senso che il moltiplicatore che si deve applicare alla rendita catastale rivalutata del 25% del reddito dominicale, rivalutato del 25%, il moltiplicatore è diventato 130, a meno che non si sia coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, nel qual caso il moltiplicatore diventa pari a 110. Per il resto non cambia nulla. Per i coniugi separati, esatto, idem, non cambia niente. nel senso che esattamente come prima, per entrambi i coniugi, sia quello assegnatario sia quello non assegnatario, l'immobile è considerato come abitazione principale. Daniele da Roma ci scrive al 349-238-6666, sono legalmente separato, nella mia casa, e quindi questa non so se deve essere considerata l'abitazione principale o la non mi ricordo mai, l'abitazione prima casa o abitazione principale, nella mia casa vive la mia ex con i miei figli, non ho altre case, come la devo pagare l'IMU, ci chiede Daniele da Roma, lo vecchio. Sì, appunto, va considerato se il coniuge non assegnatario, e mi pare di capire che chi ha fatto la domanda sia in questa situazione, se il coniuge non assegnatario non possiede altri immobili ad uso abitativo nello stesso comune in cui è ubicata l'ex casa coniugale, quindi non deve possedere altri immobili ad uso abitativo, neppure per quota, allora quell'immobile è considerato abitazione principale e quindi dà diritto all'aliquota bassa, all'aliquota agevolata del 4 per 1000 e alla detrazione. La detrazione che abbiamo spiegato all'inizio della trasmissione, che vale per i figli residenti appunto nella dimora principale, sono i 50 euro per ciascun figlio di età inferiore ai 26 anni che dimori nell'immobile, dicevamo. Un'ascoltatrice ci chiede se il figlio supera 26 anni ma è disabile, in qualche maniera viene considerato ai fini dell'ottenimento di questa agevolazione, Cristiano? Non mi sembra, purtroppo. No, in questo caso no. C'è da dire che nell'iter di conversione del decreto legge è stato votato un ordine del giorno. Che appunto, però, essendo purtroppo un ordine del giorno, impegna il governo a provvedere in futuro affinché l'agevolazione, la detrazione sia estesa alle persone disabili anche oltre i 26 anni. Però al momento rimane, come gli ordini del giorno, purtroppo un'intenzione e non si è tradotto nel testo di legge. E sempre questa persona, questa mamma, ci chiede anche: ha un figlio di 23 anni che studia fuori con un contratto di locazione, in questo caso può essere considerato ai fini dell'agevolazione fiscale per poter prendere 50 euro? In teoria no, perché stiamo parlando di un soggetto che, per quanto abbia la residenza anagrafica, non è convivente. Poi torna il discorso che dicevamo in precedenza. Chi potrebbe verificare che il figlio non è effettivamente residente? Se ha un contratto di locazione regolarmente registrato, speriamo peraltro che ce l'abbia. È pur vero che un dato esiste. Infatti. Allora, chi abbiamo adesso, chi possiamo sentire? Possiamo sentire Fabio da Forlì, buongiorno. Le pertinenze, perché tiriamo fuori qua dal cilindro un garage. Esatto, buongiorno. Grazie. Semplicemente io ho la casa, ho la visura sott'occhio, ho la casa, che è classificata, tutta la sua rendita eccetera, e c'è anche il garage. Da quello che ho letto sul decreto Salva Italia, la pertinenza adiacente alla prima casa è soggetta praticamente alla stessa tassazione della prima casa, cioè lo 0,4%. Sì. E di conseguenza io nel programmino vostro del Sole 24 Ore ho fatto semplicemente la somma delle due rendite catastali e a quel punto lì dovrei avere l'eventuale IMU che andrei a pagare. Sì. Cioè, è corretto quello che ho fatto? Aspetti lì, sentiamo se la procedura che ha seguito ha posto il problema e ha fatto anche lo svolgimento. Fabio, bravissimo. Cristiano? Ha fatto un percorso corretto. Sì, direi che sostanzialmente è corretto. Possiamo anche ricapitolare un attimo la regola sulle pertinenze, perché di fatto se ne possono avere fino a 3, però nelle categorie C2, C6 e C7, categorie catastali, che sono sostanzialmente i garage e altri locali soffitta, di servizio, esatto, ad esempio una soffitta, ma una per tipo. Quindi se io ho due garage, entrambi pertinenziali all'abitazione, soltanto su una potrò pagare l'aliquota ridotta come per l'abitazione principale. La seconda sarà una pertinenza, diciamo, ordinaria, come se io avessi quattro box auto che affitto, quindi tassati allo 0,76%. L'ultima domanda la assegno a Marco dalla provincia di Modena. C'era un'ascoltatrice, Maria, da Roma, che voleva chiederci delucidazioni a proposito di una proprietà, di un immobile all'estero. Maria, sa che facciamo? Siccome anche questo è un ambito piuttosto complesso, mi riprometto di farci un'intera trasmissione, perché sembra uno scherzo, invece ci sono molte famiglie che hanno fatto anche come investimento appunto un'operazione di questo tipo, quello di acquistare casa in qualche capitale europea o in altri posti, insomma, e quindi bisogna capire adesso come va disciplinato tutto questo ambito. Quindi sentirei Marco da Modena. Maria, noi la salutiamo, la ripeschiamo in un'altra circostanza. Marco, buongiorno. Buongiorno. Ci dica rapidissimo, sì. Sì, ho questo, i due quesiti. Uno, sono possessore di un vecchio immobile reso inagibile dal comune. Devo pagare l'IMU? No. Secondo, nel territorio montano dove sono, prima i terreni agricoli erano esenti da ICI. Adesso qual è la situazione? Aspetti lì, Marco Lovecchio, ci aiuta a chiudere il cerchio sulla questione di Marco? Sì, allora, diamo prima la risposta più sicura. I terreni agricoli sono esenti da IMU, esattamente come erano esenti da ICI, perché le esenzioni sono state confermate. Mm-hmm. Per l'immobile inagibile o inabitabile è un problema che abbiamo segnalato da tempo sul Sole, nel senso che per l'ICI era prevista la riduzione a metà dell'imposta per gli immobili inagibili. Per l'IMU questa agevolazione non è stata confermata. Certo. Il mio suggerimento è quello di andare in catasto e chiedere una variazione della rendita, attribuendo a questo immobile una rendita che sia effettivamente rappresentativa dello stato, dell'immobile, certo. Questione che si sarà posta magari per i terremotati, non lo so, o non so per chi altro. Grazie Cristiano Dell'Oste, Luigi Lovecchio, buon anno ad entrambi, ci risentiamo sicuramente presto, perché quest'anno uno dei temi più gettonati della nostra trasmissione sarà sicuramente la casa. Da Deborah Rosciani, buona giornata.